usa l'intesa, voi ho capito, cioè, ma l'avevo scritto lì al poker. Niente, quest'anno non fa quello che fa, che ha fatto l'anno scorso, no? C'è una squadra molto più forte, c'è il Milan, secondo me è più forte, comunque queste forse partenze si sanno all'inizio del campionato, possono succedere, però mi sa che non è l'Inter dell'anno scorso, non l'ho vista in Champions, non è per niente convincente, comunque speriamo bene. Voglio cosa ha fatto il Cagliari, a me dell'Inter, io non ho fatto nulla. Quest'anno mi seguo bene il Cagliari, sono uno squadrone, non la Cagliari gioca domani. Il Cagliari gioca domani, non oggi, oggi non so chi ha giocato, se ha giocato l'Inter. So che non fa, c'è un altro tipo, mi ha scritto, cosa vuoi fare del Catania Inter 2-0, 3-0. Quella che ha avvicinato la via, sta guardando i mascenti. impressione, ma come si chiama impressione? Adesso come mi con un capo passaggio. 0 sotto 0. Manca questi fatto tutto le negre, che tutto gonfiato. Grazie.